Sì, sostenere la radio questa sera. E invitiamo tutti e tutte, insomma, a partecipare all'iniziativa. E... allora, diciamo che è un genere che, insomma, può piacere, non può piacere, ma comunque riscuote sicuramente molto successo. Ma quello che mi ha colpito quando ho ascoltato il vostro disco in passato sono stati soprattutto i testi. Ecco, come nascono questi testi? Beh, guarda, più vicino. Guarda, la musica in quanto tale è un contenitore, poi ognuno la riempie come preferisce. Le nostre esperienze di vita, bene o male, con cui poi riempiamo le nostre canzoni, sono la vita di tutti i giorni, quindi i tentativi pure d'auto-organizzazione e lotta che facciamo su tutti i settori in cui ci troviamo a vivere, dai nostri posti di lavoro ai nostri quartieri, la nostra vita in generale, gli spazi sia fisici, insomma, che di tempo. Quindi dalla vita che facciamo nascono poi i nostri testi, anche un po' pure il nostro bene o male modo di pensare. E comunque bene o male tutti noi veniamo fuori da esperienze, situazioni di auto-organizzazione e lotta, chi come me dal comitato di lotta Quadraro, chi da altre situazioni di lotta che da anni si costruiscono in provincia, tra Manziana, Viterbo, insomma Bracciano, e dove ci sono molti ragazzi giovani e più o meno giovani, insomma, attivi, che portano avanti i discorsi di autoproduzione musicale. Mi viene in mente il Muerto Studio a San Manziana, che è una saletta prove, luogo di aggregazione che da anni è attivo in quel di Manziana, e quindi questo è un po' il nostro collante che poi ci ha portato a costituirci come gruppo e a suonare, insomma. Sì, quindi una, diciamo, non raccontate quello che succede, raccontate quello che fate, praticamente, direi. Diciamo, possiamo dire che comunque noi non siamo, tra virgolette, come alcuni gruppi, diciamo che siamo un gruppo politicizzato, però non siamo poi un vero e proprio collettivo come gruppo, ma comunque i testi sono incentrati più su una visione, diciamo, individuale di quello che può essere una situazione di lotta anche personale. E che aggiungere? Sì, poi i testi sono, ripeto, abbastanza, cerchiamo di coprire uno spettro di argomenti che va da un vissuto quotidiano a anche dei riferimenti culturali. Ad esempio, abbiamo fatto una canzone, Assalto al cielo, che parla dell'esperienza della Comune di Parigi, che insomma è un'esperienza in cui ci siamo bene o male riconosciuti tutti quanti. È stata una delle poche rivoluzioni proletarie che la storia ha visto. Certo, con un programma che, cioè, ne abbiamo poi parlato, c'è stata anche una cosa pubblicata tanti anni fa, La teppa all'assalto del cielo, che paragonava proprio le reazioni borghesi, in particolare della stampa, alla Comune, con quelle che ci sono state nel 77, un progetto che si vorrebbe anche rieditare con un'attenzione a episodi più recenti, come per esempio il 15 ottobre del 2011, insomma. Sì, infatti questo è un progetto che è ancora attivo, quello della riedizione di questo libro, che qualcuno di noi appunto ci si è speso. È un libro che purtroppo ormai, come tutti quelli della bellissima collana che era l'edizione dei Libri del No, sono purtroppo irreperibili, quindi sarebbe bello riuscire prima o poi a concretizzarlo e a rimettere in circolo un testo che non parla di una cosa avvenuta tanti anni fa, perché comunque è sempre attuale, ma crea il filo rosso con quello che è successo nel 1871 a Parigi e con quello che succede oggi tutti i giorni. Va bene, se vogliamo intanto far sentire un brano, uno degli ultimi, se ce lo presentate. Mandiamo proprio Assalto al cielo a questo punto, che tra parentesi il caso vuole che i Serpent Seno ci hanno dato una mano su questo pezzo, insomma ci stanno pure loro questa sera, SNIA, quindi insomma Assalto al cielo. Oh, primo della mia rivoluzione. Sparare agli orologi, bloccare gli ingranaggi della produzione. Trovare il proprio passo, un ritmo adatto non imposto dal bisogno di profitto. Prendersi il tempo, reinventarsi il tempo. C'è della terra sotto quel cemento e c'è una spiaggia sotto quell'asfalto. C'è un fuoco caldo dentro un cuore spento. Non voglio più tempo libero d'avanzo. Farò saltare in aria lancette e pause pranzo. Assalterò il cielo di domani, chiuso dentro i sogni dei teppisti e giochi dei bambini. Balenando speranza nel cuore miseri, consumando d'angosce ricchi. Chiamano limiti fin dove arrivano. Chi si spinge oltre un provocatore, teppa mossa dal furore. La furia è serpe in seno, chiamalo rumore. Sparare agli orologi, assalto al cielo. Prendere indietro il passo, assalto al cielo. Guardarsi dentro, assalto al cielo. Chiamano teppa, insegue l'impossibile. Sparare agli orologi, assalto al cielo. Prendere indietro il passo, assalto al cielo. Guardarsi dentro, assalto al cielo. Sparano addosso a chi lo rende raggiungibile. Oh. Ah! Denaro mozza ore come teste, si ingorsa del mio tempo avido come fosse suo. La mia vita accelera come una via su un percorso già prestabilito da cui non può scappare. E se terai hanno pronti manganelli, centri di igiene mentale e lucchetti ben oliati a guardia di un esistere artificiale dove il profitto è sommo giudice tra bene e male. E allora voglio inseguire un concetto di normale e di possibile che non sia galleggiare nella corrente della consuetudine, nascosto tra le convenzioni per non essere abitabile. Immaginando l'impossibile, muovendo passi verso il concreto, un'utopia raggiungibile. Il più potente potere che abbiamo, vedere dove non c'è ancora nulla, un nuovo potenziale. Sparare agli orologi, assalto al cielo. Prendere indietro il passo, assalto al cielo. Guardarsi dentro, assalto al cielo. Chiamano teppa, insegue l'impossibile. Sparare agli orologi, assalto al cielo. Prendere indietro il passo, assalto al cielo. Guardarsi dentro, assalto al cielo. Sparano addosso a chi lo rende raggiungibile. Assalto al cielo, squarcia il velo di maglia nella noia dell'asfalto. Un grido prima che scompaia, messe Houseman. Schiuma rabbia la plebaglia, non la chiudi in campi elisi. La comune non si abbaglia, da battaglia. Sguinzaglia dei gendarmi che non perdono il collare. Le tue opere rovine prima ancora di crollare. La serpe con la furia proletaria manda all'aria i piani della curia. Freno d'emergenza della storia. Morti, giorni che scappano i sogni e gli anni, i corpi, i nostri volti, denti, tutte morti. Intanto canto con la furia di chi mi vuol vedere tutti morti, gonfi e visti. Rischi la vita che hai, solo quella da perdere. Supera l'etere, ride la tua che avanza. Stella nera nell'iride, sì, sì. Nacca a vista, orbi sopra le nuvole folli, fisciando in testa le cupole, popole ungole. Smontiamo sta merda di mondo, compi con i frulli e brucole. Sparare agli orologi, assalto al cielo. Prendere indietro il passo, assalto al cielo. Guardarsi dentro, assalto al cielo. Chiamano te, batti, segue l'impossibile. Sparare agli orologi, assalto al cielo. Prendere indietro il passo, assalto al cielo. Guardarsi dentro, assalto al cielo. Sparano addosso a chi lo rende raggiungibile. Allora, eccoci di nuovo in voce. Beh, dentro questo testo, bello, devo dire, c'era una citazione di una canzone di Gianfranco Manfredi, ma che ha detto che non c'è nei sogni dei teppisti e nei giochi dei bambini. No, come mai? Cioè, come mai? Non è che se ci stupisce, però insomma un genere molto, molto diverso e anche molto indietro negli anni. Beh sì, come mai? Non, cioè, il motivo è semplicemente che è una canzone che conosco da tanto tempo, mi è sempre piaciuta. E, fra l'altro, una canzone che ho anche ritrovato, cioè, in una cassettina che aveva mia madre registrata secoli fa. E, spesso anche i nostri testi sono anche pieni di citazioni, messe insomma a rafforzare il concetto di ciò che vogliamo esprimere. E in questo testo penso che ci stava quell'immagine per quello di cui parla, insomma, di un'idea di una vita diversa, in cui il tempo possa essere autogestito da chi vive la propria vita e non gestito da chi ne trae profitto, insomma. Certo, l'esempio dell'orologio mi sembra molto calzante, anche lo slogan dell'iniziativa di oggi, nessuna gabbia rinchiuderà le nostre vite, e l'orologio sicuramente è un simbolo, più che un simbolo, è una presenza proprio perenne, che ci costringe appunto, come dicevi tu, a costringere il gioco di parole, la nostra vita proprio all'interno di schemi su cui non potremmo decidere nulla. In realtà è anche il discorso di questa utopia, no, che appunto viene chiamata tale ma che invece probabilmente tale non è. E dunque qui io vedo l'utopia, poi come diceva il buon Carletto Marx, è pensare che questo sistema, il capitalismo, possa sopravvivere all'infinito, perché poi... certo, poi ce ne sono, a noi ci dicono che siamo utopisti, e magari ce lo dice proprio chi pensa che questo che stavi dicendo tu, o chi fa discorsi anche sull'aldilà. E io vedo nel disco che ho qui i componenti del gruppo, e quindi mi piacerebbe. Caciotta al basso, lo conosco, ha parlato adesso, poi io qui vedo H voce, l'ultimo voce, Rambo chitarra e Gillo batteria. Voi due chi siete? Rambo si è trasformato in melanzano nel frattempo. Ah, melanzano? Sì, perché più che Rambo assomigliava a una melanzana, quindi è diventato melanzano. E quindi qui chi ha oltre a Caciotta? H, che è una delle due voci, e l'ultimo, che è l'altra voce. Ho capito, benissimo. Allora, dunque, devo fare una domanda ma non me la ricordo più. Quindi avete detto che è un anno più o meno che vi siete formati, quindi voi come vi siete conosciuti, che esperienze anche musicali, perché diciamo di impegno politico, chiamiamolo così, più o meno, no? Ci avete detto che tutti siete all'interno di comunque di situazioni di lotta, ma come esperienze musicali? Guarda, a livello di esperienze musicali, bene o male, veniamo tutti fuori un po' da quello che è il contesto punk hardcore, rap di Roma, e poi comunque sia, c'è stato un contesto questo che comunque è abbastanza... E, come si può dire, ci si conosce un po' tutti quanti, quindi magari io suonavo con un gruppo, Alessandro suonava con un altro, Francesco con un altro, capitava di suonare insieme, quindi il contatto è venuto da sé, insomma. Io personalmente suono con Tirmi Down, ho suonato con gli Os, suono con Godzilla e Tre Bambine coi Baffi, ci hanno avuti parecchi dei gruppi, ma ripeto, è un ambiente che è abbastanza pure di tutti amici, persone che si conoscono, quindi è anche normale questa cosa che capita prima di suonare con un gruppo poi con un altro, quindi poi nascono molto spontaneamente i legami che poi ti portano a costruire un gruppo tipo il nostro. Le famose featuring, no? Le scambiate. Quello che fondamentalmente volevamo fare con questo gruppo è unire l'attitudine del punk con quella del rap, che sono comunque due musiche ostili che stanno per strada e che molto spesso non si incontrano. Quello che un po' a noi pesava è col punk, fondamentalmente avevamo meno spazio per esprimerci, soprattutto con le parole, mentre il rap comunque ti dà carta bianca per dire, per affrontare un argomento molto più fino diciamo alla sua essenza, e quindi abbiamo cercato di unire la passione per questi due generi in un gruppo solo. Perché il punk è cantato? Scusate l'ignoranza. Beh, sì, però diciamo che il rap ti permette di fare dei testi molto più lunghi, molto più, di dire molte più parole banalmente, che poi fondamentalmente riescono a affrontare un argomento che magari con un disco punk lo affronti con un disco proprio, invece col rap riesci a affrontarlo quasi in una canzone. Certo. E quindi a dare molto più contenuto a quello che dici. E poi perché ci divertiva, insomma. Certo, ma un punto di vista, perché a volte si dice fai rap perché non sai cantare. Sì. Però pure rappare quello non è pure semplicissimo, eh? Beh, no. Beh, no. Non è come parlare. Di solito neanche chi fa punk poi sa cantare. In pratica non siamo dei cantanti fondamentalmente. Però avete anche dei brani cantati, no? Dentro, insomma, fra le vostre produzioni. Sì, abbiamo qualche featuring con cantanti, diciamo, tra virgolette, un po' più bravi di noi e canonici. Per esempio, penso a Maurizio degli Ultimi, che è l'altro gruppo dove io sono la chitarra, e che ci ha dato una gran mano sul disco. Magari poi facciamo sentire pure un brano di questi. E quindi stasera avete citato Serpenzeno, avete citato Serpenzeno, quindi magari ci saranno delle performance insieme questa sera? Sicuramente il palco nostro di solito è sempre un po' open, diciamo, quindi abbiamo un sacco di amici che salgono con noi e ci aiutano a fare dei pezzi. E, diciamo, puntiamo a divertirci, e quello è una cosa che ci diverte molto, insomma, live. Poi una cosa che mi piacerebbe sottolineare è che all'interno, per la cosa bella delle iniziative che sono delle iniziative di autofinanziamento o comunque sia di strutture, di posti di compagni e compagne, che non ci dovrebbe essere nessuna differenza fra, ad esempio, chi suona e chi sta a spinare una birra, chi sta a raccogliere la sottoscrizione all'entrata, perché il siamo tutti sulla stessa barca. E sinceramente io personalmente non mi sono mai sentito né un artista né tantomeno un musicista, ma nel momento in cui mi approccio a queste situazioni, un compagno come il compagno che magari ha attacchinato, come la compagna che ha fatto da mangiare per la cena, come, quindi questa è la cosa bella, insomma, che poi siamo tutti sullo stesso livello e tutti uguali, insomma. Questo ci introduce sicuramente a un altro argomento, però io c'è un'altra osservazione che volevo fare, però magari mandiamo uno di quei brani che avevi detto quello che mi avevi messo un attimo, perché qui siamo... Beh, intanto ve lo presento, questo è un pezzo degli ultimi, che è più o meno del 2008, si intitola Eroe e parla fondamentalmente affronta il tema delle morti sul lavoro e fa un paragone tra chi muore, diciamo, in fabbrica, o comunque chi è precario, che non è mai tacciato di eroismo, e fa un paragone invece con chi va a fare missioni tra virgolette umanitarie fuori e rientra come un eroe dentro una bara. Ma voi qui c'è una collaborazione, quindi con gli ultimi? No, diciamo che Maurizio ha collaborato con noi sul disco, però ci tenevamo a mandare questo pezzo in particolare. Va bene. Sozzi, luridi, venditori di carne umana, voi siete infami, infami. Mattina! stati 200 anni di morti ammazzati, trascinate in guerre senza ragione, giustiziati per servire un padrone. Ogni mattina dentro questo macello, siamo 50 dietro questo cancello, sfiliamo in coda senza dire parole, eppure oggi abbiamo visto il sole. Allora torniamo in voce. Fra me e me pensavo mentre ascoltavo questo brano quanto è bello capire quello che cantano o che rappano, no? Perché tante volte si mandano ore interminabili di rap francese o inglese eccetera, e io magari acchiappo qualche parola così, qualcun altro magari capisce perfettamente, ma insomma invece c'è molta produzione nella nostra lingua che varrebbe la pena di far conoscere. E su questo diciamo che il rap, di cui abbiamo parlato prima, no? Che le possibilità espressive che dà, e in Italia c'è tanta gente che rappa, no? Però ecco, già dai testi di queste canzoni che appunto possiamo capire, vediamo la differenza, cioè piacciono, vanno in televisione, sembrano anche alternativi, ma in realtà sono testi che poi si possono prestare a varie interpretazioni, e invece il testo deve essere assolutamente non ambiguo, no? Chiaro, limpido e comprensibile, cioè deve essere comprensibile da che parte stai. Se pensi a Caparezza, a Fedez, no? Sta gente qua non è che si... Ma poi... guarda, questo, quello del tra virgolette il music business, è un ambiente totalmente marcio, in cui la logica dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo è proprio lampante. Molti dell'uomo noi... sulla donna, sì. Molti di noi ci hanno lavorato, chi continua a lavorarci anche in quell'ambito lì, nell'ambito del montaggio e smontaggio dei palchi dei concerti, e lì ti rendi conto quanto poi siano dei fenomeni da baraccone, dei pagliacci, tutti questi, no, tra virgolette, musicisti che l'opinione pubblica ce li definisce come tali, ma che in realtà sono dei pagliacci, in cui poi le case discografiche, no, gli dicono cosa dire, quello che suonare, e da loro non ti troverai mai un messaggio, no, che incita a ribellarti, che ti sprona, come dire, a costruire una rivoluzione. Ma anzi, messaggi, quello che puoi aspettarti da questi pagliacci sono semplicemente messaggi che ti invitano alla rassegnazione sociale, ad accettare tutto quello che ti circonda, la canzonetta stupida d'amore, oppure le canzonette che non ti fanno pensare. Invece quello che noi pensiamo è che la musica come possa essere uno strumento che invece magari ti invita a pensare a quello che ti circonda, a pensare come sarebbe bello vivere in un mondo senza sfruttati né sfruttatori, insomma. E quindi anche il vostro rapporto con le iniziative, no? Con i benefit, voi questa sera suonate gratis, suonate come proprio intervento politico, no? Diciamo così, che è un po' nello spirito di quello che voi fate. Sì, noi in tutte le volte in cui appunto si tratta di suonare per sostenere delle situazioni di compagni e di compagne, insomma, cioè, ripeto, il contributo nostro è come lo stesso contributo di chi poi attacchina o chi poi spina la birra, cioè, nel senso, non pensiamo che queste siano attività su cui debbano costruirsi fenomeni lavorativi. Anzi, cioè, nel senso, la logica del insomma su questi argomenti dell'autoreddito non ci appartiene, insomma. Ognuno di noi poi tenta di costruirsi in quanto comunque lavoratori e lavoratrici, cioè dobbiamo affrontare questo problema nella nostra vita, far fronte appunto alla necessità che abbiamo di lavorare, ma lo facciamo al di fuori di quelle che possono essere delle iniziative politiche. Sì, senti, allora prima parlavamo appunto del business musicale, per esempio hai citato lo smontaggio dei palchi, e rispetto a questo c'è proprio di questi giorni rinvio a giudizio per la morte di Matteo Merlini, un giovane compagno che credo alcuni di voi conoscessero personalmente, che lavorava proprio al montaggio dei palchi e che è morto nel crollo di una di queste strutture. E voi avete, mi dicevi, dedicato un brano proprio che faremo magari adesso ascoltare. Sì, il brano si chiama Maledetto Lavoro, l'abbiamo scritto principalmente per il fatto che tutti noi del gruppo comunque abbiamo lavorato in questo settore, come fra l'altro la maggior parte dei ragazzi che stanno a Roma, perché è il lavoro che fanno più o meno tutti, non essendoci fabbriche a Roma, la fabbrica che c'è appunto è quella dei grandi eventi, e chi ha lavorato come facchino, chi nei catering, comunque è un mondo che purtroppo insomma conosciamo bene. Il pezzo sì, è dedicato a Matteo, è dedicato a Francesco Pin, a Khaled, sono morti a Trieste, a Milano e a Reggio Calabria in cosiddetti incidenti sul lavoro. Appunto il 26 febbraio inizierà questo processo a 7 persone responsabili dell'Ital Stage, che sono i fornitori del palco, un responsabile dell'organizzazione, due dirigenti comunali di Reggio Calabria. Non che abbiamo chissà quale fiducia nella giustizia borghese, però insomma già il fatto che siano state identificate per la prima volta delle responsabilità in questo tipo di incidenti, insomma vuol dire che qualcosa si sta muovendo. Penso soprattutto grazie all'impegno che ci ha messo la madre di Matteo. Sì, che insomma che salutiamo, che conosciamo personalmente. E poi fra l'altro tu citavi appunto i pagliacci, no, della musica. Io ricordo che non so se all'indomani della morte di Matteo o di Francesco ci fu appunto subito questi personaggi diventano protagonisti loro di quello che è successo e cominciano a twittare, a postare sui loro profili. Io ricordo Jovanotti che mi pare proprio per la questione di Trieste, dove doveva cantare Laura Pausini se non sbaglio, le mandò un agghiacciante messaggio in cui diceva ti sono vicino in questo momento, come se il problema fosse appunto di Laura Pausini e non del povero Francesco. Sì, no, guarda, poi ti hai citato perfettamente un personaggio che, cioè un cane secondo me, c'ha molta più dignità, insomma. Jovanotti cioè, è riuscito a speculare pure sulla madre che gli era morta, cioè, ha fatto una canzone subito dopo, capito? Quindi cioè, figurati, cioè, gente senza cuore, senza pelo sullo stomaco, che quindi cioè, nel senso, veramente cioè, ossigeno rubato. Questa è carina, non la conoscevo, viene da qualche vostro testo? Magari ce no, lo... viene veramente dal mio cuore. Allora avevo un'idea per il prossimo testo. Allora mandiamo questo brano Maledetto Lavoro. Vetrine del superfluo costruite sul lavoro nero e sfruttamento. Dietro le quinte ogni concerto c'è chi scarica bilici per tutto il giorno, chi resta appeso a 20 metri sopra il mondo, chi c'ha le mani spaccate sul ferro ghiacciato d'inverno e rovente d'estate. Correre per ottimizzare i tempi, risparmiare sulla sicurezza, non sull'autocompensi, a 16 artisti, caschi gialli, guanti neri, tutta la notte come ladri senza essere visti, poveri cristi crocifisso il liar in nome dello show business, e non esiste che per questi quattro spicci tocca pure morisce. Maledetto denaro, maledetto lavoro, nel vostro lurido spettacolo non c'è decoro. Maledetto lavoro, maledetto denaro, soldi cambio della vita a un prezzo troppo caro. Per un cane un altro Cristo da un'americana, arruolato a forza a fronte di una guerra muta, celato dietro riflettori accesi, dietro lo spazio dello lo show, vanno in onda tutti i giorni, taglio precariato. Questo denaro è maledetto, morire per un piatto, per un tetto, per stare a galla in questo mondo. Il lavoro è il suo strumento, se vuoi mangiare scroppa e rischi al culo tutti i giorni, questo è il suo ritratto. È la macchina dell'intrattenimento, il tuo cantante preferito non è altro che un prodotto. Progettarlo, impacchettarlo e dargli un costo, venderlo a caro prezzo, realizzare un buon profitto. Questo denaro è maledetto, morire per due spicci al nero, per stare a galla in questo mondo. Il lavoro è il suo strumento, se vuoi mangiare sgroppa e rischi al culo tutti i giorni, questo è il tuo ricatto. Maledetto denaro, maledetto lavoro, nel vostro lurido spettacolo non c'è decoro. Maledetto lavoro, maledetto denaro, i soldi cambi della vita a un prezzo troppo caro. Maledetto denaro, maledetto lavoro, nel vostro lurido spettacolo non c'è decoro. Maledetto lavoro, maledetto denaro, i soldi in cambio della vita a un prezzo troppo caro. Prima di tornare a un altro brano e poi chiudere questa piacevole conversazione, vi ricordo ancora l'iniziativa di stasera alla SNIA, iniziativa di, a sostegno di Radio Onda Rossa, quindi con doppia valenza, e ci sarà una cena a cura appunto di compagni e compagne che sono della redazione o vi ruotano in qualche modo intorno, e poi questo concerto a cui fra l'altro parteciperanno appunto i compagni della Furia, oltre a Kalashnikov, Serpenzeno e Dirty Jobs. E allora, se volete dire qualcos'altro, presentare magari il brano che faremo sentire fra poco. Ci tenevo a mandare questo brano qui, che è un brano dell'altro mio gruppo che si chiama Tear Me Down. È un brano in cui... Ma esiste ancora, no? Sì, ah, il gruppo ancora. Sì. E se tu non fai che siamo sparsi... No, è che siamo sparsi un attimino fra gli angoli d'Italia, quindi anche di non Italia, perché la Sardegna non è Italia. E... No, questa ce la devi spiegare, perché qualcuno potrebbe anche avere male. No, nel senso che comunque il... è molto sentito in Sardegna il fatto, certo, l'oppressione dello Stato italiano, e essendo anche un'isola è molto sentito anche il fatto, no? Della propria identità, delle proprie tradizioni e culture, quindi cioè, vabbè ho capito, sì, ogni sardo di solito quando gli dici, cioè, andando fuori dalla Sardegna, dice che va in continente. Lo so. Allora, quindi questo brano Questo brano si chiama Onore, è tratto da un disco di parecchi anni fa che si chiamava La rivolta non si arresta, che era uscito in un contesto abbastanza particolare, al contesto in cui c'era stata l'operazione Cervantes, una serie di inchieste pure giudiziarie contro, che gravavano appunto su una serie di esperienze di lotta e di auto-organizzazione tra il Viterbese e non solo. È particolare questo brano perché chi poi ci parla sopra non è cantato, c'è un testo che appunto lo legge un nostro caro compagno Morpot, e niente, e quindi è carino mandarlo. Lo mandiamo, va bene.